facile essere giovani in un tempo innaturale, con davanti un futuro di cui non abbiamo il manuale. E noi che siamo vecchi abbiamo poco da insegnare, perché anche per noi è tutto nuovo da scoprire. Francesca sogna il mare in California o spiagge del Brasile, fondare una startup per lavorare da Barcellona, essere felici ed essere sempre una persona buona. Cosa dice la scienza? L'amore è un ormone. Non chiedo risposte, ma almeno proposte per una direzione. La comprensione di una condizione, la condivisione della stessa emozione. Francesca sogna il mare. Francesca sogna. Continuerà a sognare, vivere a colori e ritrovare i propri suoni, saper guardare il mondo tutti i giorni con occhi nuovi. Mi sento liberamente, vivo in un mondo che non è coerente, l'attimo è solo il presente. Scadenze che è fuori dagli schermi, fuori dal controllo, fuochi d'artificio per un piccolo mondo, di pensieri al vento per una vita piena, cavalcare l'onda se ne vale la pena, stare sempre svegli ad imparare la vita, perdersi e trovarsi per una via d'uscita, perdersi e trovarti per sentirmi capita, perdersi e trovarti per sentirmi capita.